mi insegna che non c'è miracolo nel pensiero e le parole annegano nel sordo richiamo di questo foglio. La velocità mi insegna che non ho tempo in vista di ciottoli sulla strada da scalciare per poter pensare. Facente tutta piena dove non puoi marcire. La velocità implica che io non posso sbagliare, quindi non posso amare.